GR24, il sole 24 ore. Studenti delle superiori in piazza Tafferugli con la polizia a Roma, Milano e Torino, contusi e lanci di lacrimogeni. Alemanno a Roma niente, lista PDL, Berlusconi prepara l'azzeramento del partito. Grecia al collasso, Samaras soldi solo fino a novembre, rischiamo il nazismo, Monti con Olanda, Malta per salvare anche la Spagna. Saldi già a Sant'Ambrogio, rivoluzione a Milano per provare a rilanciare i consumi, ma protestano i piccoli negozi. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Lacrimogeni, come sentivate, cariche della polizia contusi, la protesta degli studenti delle scuole superiori in diverse città italiane si è trasformata questa mattina in momenti di tensione. Tensione che va avanti ancora in questi minuti. Allora torniamo a fare il punto con Raffaella Calandra. Sì, buongiorno, come sentite, scontri e cariche, lanci di pietre e poi fumogeni, blocchi forzati e primi fermati. Gli studenti d'Italia tornano in piazza e da Torino a Napoli, da Pisa a Roma, da Milano a Bologna è stata una mattinata di tensioni e disagi che per ora conta almeno 15 fermati e qualche contuso. Si tratta della prima delle mobilitazioni nazionali annunciate contro crisi e austerità, come recitano gli striscioni portati in testa ai cortei o srotolati contro i baroni, come si legge sull'altare della patria a Roma. Urla e slogan contro i politici hanno fatto poi da sottofondo ai momenti di tensione verificati soprattutto a Torino, ma poi anche a Milano e Roma. Sotto la mole le cariche della polizia sono iniziate quando dal corteo sono partite uova e vernici contro i negozi in via 20 settembre e sono finite con 15 ragazzi identificati e fermati, tra cui 5 contusi. Nelle tasche sono stati trovati anche dei sanpietrini. A Roma diverse decine di manifestanti hanno tentato di forzare il blocco a Porta Portese innescando tafferugli con la polizia che ha cercato poi di convogliare il corteo verso Piramide. Stesse scene ma slogan e invettive diverse a Milano davanti alla sede della regione ed è finita anche qui con lacrimogeni e petardi come quelli esplosi pure a Napoli e col traffico andato in tilt un po' in tutte le città. Per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, naturalmente come sempre vi terremo aggiornati. La politica ora invece, perché Berlusconi starebbe preparando la svolta, PDL azzerato e un nuovo partito, sentite. Azzerare tutte le cariche, chiudere definitivamente l'esperienza del Popolo delle Libertà e dare vita ad un nuovo soggetto politico. Secondo indiscrezioni sarebbe questa l'idea alla quale Silvio Berlusconi sta lavorando in questi giorni in vista delle prossime scadenze elettorali. Non un semplice cambio di nome quindi, ma un nuovo progetto politico col quale ricompattare un centrodestra sempre più scosso dal caso Lazio e dai contrasti interni. Si parla già del 2 dicembre come data nella quale presentare il nuovo partito. Ad invocare un rinnovamento del centrodestra oggi è anche il sindaco di Roma, Alemanno, che, intervistato da Sky, annuncia che nelle prossime elezioni nella capitale non ci sarà più il simbolo del PDL. L'importante è non fare un lifting, fare un'operazione in profondità. Noi dobbiamo azzerare il PDL, creare un soggetto nuovo, rigenerarlo dalla base aprendo porte e finestre. Quindi da questo punto di vista, se è questo, massima collaborazione, massimo impegno a un nuovo soggetto unitario. Se non è questo, allora i problemi si faranno seri e ognuno potrebbe prendere strade diverse. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sul fronte del PD, la giornata decisiva per la sfida Bersani-Renzi, almeno per le regole del gioco, sarà invece domani. Il punto di Stefano Folli. Domani l'affollata assemblea del PD, un organismo quasi mai chiamato a decidere su questioni determinanti, dovrà definire le regole delle primarie. La logica vorrebbe che si trovasse un compromesso fra Bersani e Renzi, perché sarebbe assurda una lacerazione consumata sul modo di intendere le primarie, un tema su cui il PD ha fatto peraltro più di qualsiasi altro partito. E probabilmente l'accordo ci sarà. Tuttavia non si deve credere che la frattura nasca da un fatto formale. In realtà sono in campo due modi di intendere il partito, anzi il centrosinistra e la sua prospettiva. Due modi di intendere anche il rapporto con l'opinione pubblica. Bersani cerca di salvare quel che resta di una forza organizzata sul territorio, che vuol dire anche molto potere locale. Renzi pensa a un partito postmoderno, leggero e all'americana, in grado però di ottenere il consenso di ceti che fino ad oggi mai avevano votato per il PD. Sono due mondi difficili da tenere insieme e che tendono nel tempo a separarsi, anche se a nessuno oggi conviene una scissione. La Grecia ha fondi solo per arrivare fino a fine novembre, poi le casse sono vuote. Se il sospetto c'era, ora a confermarlo è il primo ministro greco Antonis Samaras, che ha usato anche parole forti. La Grecia, ha detto in un'intervista ad un quotidiano tedesco, è come la Repubblica di Weimar, la situazione tedesca prima del nazismo, con il rischio totalitarismi per la troppa disoccupazione. Parole dure che arrivano mentre il premier italiano Monti, il francese Hollande e lo spagnolo Rajoy sono in volo per Malta per provare a salvare anche la Spagna. Allora sentiamo l'inviato. Il premier greco Antonis Samaras ha ammesso che senza aiuti della tranche da 31 milioni di euro a novembre le casse greche saranno vuote. In attesa che la Troica trovi un accordo con Atene e che appunto vengano concessi nuovi tagli e nuove spese, Atene resta in limbo, mentre si fanno più forti le voci di un nuovo salvataggio per la Grecia per altri 20 miliardi di euro, come ha ammesso il presidente dell'International Institute of Finance di Charles Dallara. Intanto oggi a Malta, in un vertice dei paesi mediterranei, lo stesso premier spagnolo Rajoy parlerà dei tempi e dei dettagli del salvataggio spagnolo con Mario Monti e François Hollande. Sul tavolo c'è la possibilità di salvare la Spagna senza spaventare i mercati. Un'ipotesi allo studio è che l'ESM, il Fondo Salva Stati, potrebbe fornire garanzie sulle emissioni di bond spagnoli. Vittorio Garolle, Radio 24, Sole 24 Ore, Malta. E con Monti in partenza da Roma, come sentivamo, questa mattina la Commissione Finanze della Camera ha dato il suo via libera alla delega fiscale. Il provvedimento arriverà in aula mercoledì 10 ottobre, ma il governo è stato battuto poco fa. Allora sentiamo Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, incidente di percorso per il governo in Commissione Finanze, è stato approvato infatti un emendamento del relatore alla delega che sospende il previsto accorpamento delle agenzie fiscali, così come stabilito da Palazzo Chigi. L'agenzia del territorio, lo ricordiamo, doveva essere accorpata alle entrate, mentre i monopoli con le dogane. Gli accorpamenti sarebbero dovuti scattare già dal 1 dicembre. Viene comunque introdotta la razionalizzazione organizzativa dell'amministrazione finanziaria. Il provvedimento nella sua globalità ha quindi ricevuto il via libera dalla Commissione Finanze, la delega arriverà così in aula alla Camera la prossima settimana. Sul fronte tasse, intanto, sempre in commissione, il sottosegretario all'economia Ceriani ha annunciato che si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la facoltà di anticipare al 2013 l'attivazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Il ministro Passera ha poi commentato: c'è un grande impegno del governo per evitare l'aumento dell'IVA in maniera strutturale, rimandato a luglio, e creare così le condizioni perché dalla prossima legislatura vengano ridotte le tasse. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie, poco fa a parlare il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, apprezziamo lo sforzo fatto fin qui dal governo, ma lo invitiamo ad alzare l'asticella, dice Squinzi, che del pacchetto di misure varate ieri rileva quelli che definisce limiti evidenti nella norma sul decreto d'imposta per opere strategiche. Confindustria ha detto si batterà per interventi correttivi che riteniamo necessari. Sentivamo: nessun aumento dell'IVA, le tariffe però aumentano, molte delle tariffe aumentano. Confesercenti ha fatto i conti: dal 2007 al 2012 le spese per i servizi pubblici locali delle famiglie italiane sono cresciute di 350 euro. Al microfono di Luisa Perona, Antonello Oliva, responsabile dell'ufficio economico di Confesercenti. Le tariffe di questi servizi pubblici locali, che sono 5 che abbiamo considerato i più rilevanti, sono cresciute complessivamente del 27%. Contro una dinamica dei prezzi al consumo del 13%, quindi queste tariffe sono cresciute in 5 anni e mezzo, sostanzialmente più del doppio dell'inflazione media. Abbiamo anche verificato questa cosa, che c'è un fortissimo, come dire, sventagliamento per alcuni di questi servizi a seconda di dove una persona abiti. Nel corso degli anni i comuni, gli enti locali, le regioni, le province hanno subito di forti tagli. Quello che si rileva è che il recupero dei fondi tagliati in prevalenza avviene attraverso un aumento dei prezzi dei servizi erogati. Rilanciare i consumi attraverso i saldi. Ci prova intanto la Lombardia. Quest'anno niente saldi della Befana, i ribassi cominceranno ben prima di Natale. A Milano l'anticipo delle vendite promozionali di un mese avrà un effetto anche simbolico. Gli sconti inizieranno già a Sant'Ambrogio il 7 dicembre, clou degli acquisti natalizi. Contrari però i piccoli negozi, che temono un'ulteriore contrazione dei consumi già da novembre, in attesa appunto dei ribassi pre-natalizi. Attentato alla sede di Equitalia a Verona, una bomba nella notte e nessuna rivendicazione. Sono stati già riaperti al pubblico gli uffici della sede di Equitalia a Verona, dove nelle prime ore di stamani, poco dopo le 3 di mattina, degli sconosciuti hanno fatto scoppiare all'esterno dell'edificio un ordigno rudimentale, forse una bomba carta, che ha provocato soltanto danni lievi. Un altro ordigno simile è rimasto invece inesploso. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Alla sede veronese di Equitalia sono arrivati i dirigenti delle organizzazioni sindacali per esprimere la loro solidarietà ai lavoratori. Per Massimo Castellani, segretario generale della CISL, è inaccettabile e inaudito che si prendano di mira i luoghi di lavoro. Anche Lucia Perina, segretario provinciale della UIL, ha condannato il gesto. Un atto gravissimo che va totalmente censurato, ha detto, ma ha anche aggiunto che non va sottovalutata l'esasperazione in cui si trovano molti contribuenti. Lo Stato, ha ribadito Lucia Perina, deve intervenire tenendo conto dell'emergenza che deve affrontare chi magari è rimasto senza lavoro e non riesce a far fronte al pagamento delle tasse. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto il governo ha deciso una proroga per Equitalia. 6 mesi in più per Equitalia, il tempo di mettere in campo regole più chiare sui tributi locali. Lo prevede la norma inserita in extremis ieri dal governo nel decreto legge sugli enti locali approvato dal Consiglio dei Ministri. La nuova proroga, che posticipa al 30 giugno 2013 l'addio di Equitalia ai comuni, nasce dallo scandalo Tributi Italia, la società privata che riscuoteva le tasse per i sindaci ma non le riversava ai comuni e che ha visto in settimana l'arresto del suo fondatore Giuseppe Saggese. I comuni, uscita di scena Equitalia, dovrebbero scegliere con gara il nuovo partner tra le società private iscritte all'albo, a meno che non vogliano gestire direttamente il servizio o affidarlo a una società propria. In campo sta scendendo anche l'ANCI, ma il problema è quello di riscrivere regole certe che garantiscano i riversamenti delle società di riscossione ai conti comunali. Gianni Trovati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tempo di svolte di bilanci per la città dell'Aquila, Maria Piera Ceci. Sì, Anna, sono passati 3 anni e mezzo ormai dal terremoto dell'Aquila e la storia che raccontiamo oggi ad Italia in controluce è la storia di una rinascita, molto difficile a dire il vero, ancora davvero molto difficile, ma comunque una rinascita attraverso la musica in particolare. Domenica, infatti, alla presenza del Capo dello Stato Napolitano viene inaugurato il nuovo auditorium proprio nel cuore della città. 4,8 milioni messi a disposizione dalla provincia di Trento, nessun compenso per il maestro Claudio Abbà, che appunto suonerà domenica, e per l'architetto Renzo Piano, che invece ha disegnato la struttura. Lo ha intervistato Laura Bettini. È una sala da 250 posti. C'è uno strumento musicale piuttosto sofisticato, fatto con il famoso abete rosso della Val di Fiemme, che è il legno usato per fare tutti gli strumenti musicali, da Stradivari in poi, insomma. Claudio Abbado ci va spesso a suonare e mi chiese l'ultima volta che andò all'Aquila, dopo il terremoto, mi chiese di lavorare all'idea di fare un piccolo auditorium temporaneo che possa, diciamo, mantenere in vita questa grande tradizione musicale. Grazie Maria Piera Ceci. Come sempre di tutto questo abbiamo già parlato, ci sono anche altre notizie. Prima però vi do un aggiornamento che arriva ancora da Roma, dove proseguono le manifestazioni degli studenti delle scuole superiori, ve l'abbiamo già raccontato, ma ci sono stati altri tafferugli e arriva la denuncia di alcuni studenti che raccontano di essere stati trascinati per terra, picchiati e minacciati con manganelli puntati alla gola durante gli scontri a Porta Portese. Cercheremo allora di tornare sulla vicenda per raccontarvi ancora quello che sta succedendo. Nel frattempo con noi in linea invece c'è Enrico Pagliarini, buongiorno. Buongiorno Anna. Enrico Pagliarini, perché moriva Steve Jobs e con l'iPhone 5 nei negozi a questo punto restano aperte anche le domande sul futuro della Apple. Quante idee avrà lasciato nel cassetto? Sarà riuscito a creare davvero una squadra capace di proseguire la sua opera, Enrico? Esattamente, sono praticamente 2 grandi domande che ci si fanno da un po' di mesi, già si facevano pochi giorni dopo la morte di Steve Jobs lo scorso anno. Beh, direi che la prima riguarda le idee. Molti dicono, alcuni sostengono che Steve Jobs abbia lasciato alcune idee e alcuni progetti che vedremo nei prossimi 2, cioè chi dice addirittura 3-4 anni. E quindi la prima domanda che ci si fa è: vero che esistono queste idee o invece solo una leggenda? Ma insomma, difficile saperlo. L'altra domanda invece, e su questo forse possiamo avere già qualche risposta, è se Steve Jobs è riuscito a lasciare una squadra capace di ripetere i suoi successi, anche la capacità, la sua mania di realizzare prodotti così precisi e così affidabili. Beh, allora, qua possiamo dire che forse qualche crepa già si vede nella Apple, visto quello che è successo con le mappe. Sappiamo che Apple ha sostituito le mappe di Google su iPhone e su iPad con il nuovo sistema operativo, e su queste mappe nuove Apple non ha fatto certo una bella figura, e molti dicono: se ci fosse stato Steve Jobs, questo non sarebbe accaduto. Beh, una prima crepa l'abbiamo vista, vedremo se nei prossimi mesi le soluzioni verranno trovate e tutto verrà rimesso sulla strada giusta. Vedremo, naturalmente le domande restano davvero queste. Grazie nel frattempo Enrico Pagliarini. La cronaca: maxi frode fiscale internazionale, 17 imprese con sede legale in vari paesi europei commercializzavano in Italia evadendo il fisco, 112 milioni di euro di IVA evasi, la vicenda è stata scoperta. Il colonnello della Guardia di Finanza, Giovanni De Roma. È stata un'indagine tipica della polizia tributaria investigativa. Queste società approfittavano indebitamente di un regime comunitario che era valido anche in Italia fino al 2010. Nel 2010 sono state recepite queste direttive comunitarie che sostanzialmente hanno imposto l'obbligo di fatturazione al soggetto cessionario, cioè a chi riceve la merce in Italia, proprio per far sì che chi vendesse non potesse poi più sparire ed evadere l'IVA. 4 milioni di euro, abbiamo già fatto i sequestri preventivi penali con i provvedimenti penali disposti dal pubblico ministero, mentre per gli 80 milioni abbiamo chiesto sequestri cautelari all'Agenzia delle Entrate. Vatilix è attesa per domani con ogni probabilità la sentenza a carico del maggiordomo del Papa Paolo Gabriele. Il pezzo, sentiamo. Rischia fino a 6 anni di carcere Paolo Gabriele. L'ex maggiordomo del Papa è infatti accusato di furto aggravato. Secondo le testimonianze dei gendarmi, che il 23 maggio lo arrestarono, in casa sua custodiva più di un migliaio di documenti riservati del Papa e della Santa Sede, sia in originale che in fotocopia, mescolati ad altre migliaia di carte relative a ricerche e testi sulla massoneria, esoterismo, loggia P2 e caso Calvi, solo per citarne alcuni. Con la requisitoria del promotore di giustizia Nicola Picardi, l'arringa dell'avvocato difensore Cristiana Arru, domani si concluderà il processo a suo carico. Nella sua testimonianza Gabriele non ha parlato di complici, ha solo fatto i nomi di alcune persone che lo avrebbero suggestionato, tra queste due cardinali Comastri e Sardi, il vescovo Cavina, l'ex governante del Papa Ingrid Stampa. Per Gabriele potrebbe anche arrivare il perdono di Benedetto XVI. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Interviene il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla decisione tedesca di non procedere con il processo all'ex SS per la strage di Sant'Anna di Stazzema. Registriamo con profondo drammarico, dice Napolitano, le sconcertanti motivazioni con le quali è stata disposta in Germania l'archiviazione di procedimenti giudiziari contro soggetti accusati di partecipazione diretta a efferati stragi naziste. Così poco fa il Capo dello Stato in un messaggio per l'anniversario di un altro eccidio nazista, quello di Bellona. Siamo allo sport, la Formula 1. Max Weber è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Suzuka in vista del Gran Premio del Giappone. Ha preceduto la McLaren di Lewis Hamilton, terzo miglior tempo per l'altra Red Bull di Sebastian Vettel, quinta la Ferrari di Alonso, la rossa di Felipe Massa è nona. E per il calcio le italiane rialzano la testa. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Come la donna, il calcio italiano è mobile. Dopo il magro pareggio della Juventus con lo Schalke, tutti a dire che con gli stranieri diventiamo piccoli piccoli. Adesso, dopo la splendida vittoria dell'Udinese nella tana del Liverpool, con un Di Natale in versione Harry Potter, torniamo giganti. A riportarci a quote più normali arriva però lo schianto del Napoli, travolto per 3-0 dal PSV. Unica eccezione negativa in un turno di Champions che vede i facili successi della giovane Inter e della Lazio. A questo punto i riflettori si accendono di nuovo sul campionato, su questo strano Milan-Inter che esce da tutti gli schemi. Qual è il Milan? Qual è l'Inter? Dopo il mercato estivo nessuno l'ha ancora capito. Lavoro in corso, come per l'Expo. Il Milan, grazie a Esharawi, respira. Ma Allegri che squadra vuole? e stramaccioni con l'Inter. Il tecnico sa che non bastano le prodezze di Coutinho per chiudere il cantiere. Insomma, è tempo di straordinari e chi perde dovrà ancora lavorare a lungo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo quasi in chiusura, ma prima di chiudere ancora gli aggiornamenti sulla tensione per i cortei studenteschi nelle città italiane, a Roma in particolare, Raffaella Calandra. Sì Anna, e soprattutto a Roma, che la tensione in questi minuti sta salendo perché gli studenti hanno denunciato di essere stati picchiati, trascinati per terra e minacciati con manganelli. La manifestazione è tuttora in corso nei dintorni di Porta Portese, ma alcuni liceali hanno riferito appunto di essere stati bloccati dagli agenti e trascinati, ed in uno dei primi scatti che stanno ora circolando sulla rete si vede uno studente del liceo Virgilio con una maglietta rossa tirato per il braccio da un agente di polizia. Immagini ancora, diciamo, poco chiare per la ricostruzione della dinamica, ma si tratta di sicuro di denunce e di dichiarazioni che probabilmente innescheranno altre reazioni da parte degli studenti che sono tuttora in piazza in tutta Italia. È tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Allora, aggiornamenti come sempre GR24, cominciare dalla prossima edizione alle 14. Per il momento invece ci fermiamo qui. Fabio Cantadori in regia, da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli, primo venerdì con i dati del box office. Da questa settimana le uscite sono infatti anticipate al giovedì. Ieri si è incassato complessivamente più di 1 milione di euro, corrispondente a circa 160.000 spettatori, più 60% rispetto alla scorsa settimana, nel giorno che tradizionalmente era considerato il più povero. In prima posizione l'esordio di Ted, secondo L'Era Glaciale 4, terza posizione per Step Up Revolution 3D. Tra le nuove uscite, All'ultima spiaggia a settimo, Un sapore di ruggine e ossa nono e Padroni di casa a quattordicesimo. Un piccolo film, questo con grandi interpreti, diretti da Edoardo Gabriellini, Valerio Mastandrea, Gianni Morandi e Elio Germano. È un film sicuramente appunto particolare, è un film appunto difficile da realizzare, soprattutto tant'è vero che è stato realizzato grazie alla compartecipazione di alcuni artisti che hanno creduto nel progetto. E non nello stipendio in questo caso, per cui sicuramente è un film in cui abbiamo creduto proprio per la sua per la scommessa che rappresenta, no? Cioè raccontare in qualche modo una cosa molto semplice che avviene nella nostra vita, cioè la follia improvvisa in qualche modo, cioè che coltiviamo dentro ciascuno di noi. Facciamo una vita da commedia e poi ci troviamo il dramma sotto gli occhi, appunto i generi si mischiano nella vita vera, quindi non c'è, cioè il thriller è dietro la risata. Daryl Hannah arrestata ancora una volta per le sue battaglie ambientaliste, è successo durante una protesta in Texas contro l'oleodotto Keystone XL. L'attrice americana cercava di bloccare i lavori mettendosi davanti a una scavatrice. La musica, dopo un silenzio di oltre 3 anni, torna a Eros Ramazzotti. Uscirà il 12 ottobre il singolo Un angelo disteso al sole, che anticipa l'album Noi, in uscita il 13 novembre. Esce invece martedì 9 ottobre il nuovo disco dei Pooh, Opera Seconda, una nuova veste per i loro grandissimi classici. Ne è uscito un disco vero, sincero, con delle parti nuove completamente riscritte, ma dei personaggi vecchi che non so se dire purtroppo per fortuna, ma sono ancora attuali, perché il problema di Pierre e dell'omosessualità non è stato certo risolto nonostante l'outing di qualche collega. Il sogno è l'unico valore che noi abbiamo, l'abbiamo raccontato in Lindbergh, in Maria Marea, ma purtroppo ci accorgiamo che quei sogni che noi avevamo negli anni 70, che erano sogni che andavano lontano, oggi i nostri figli non possono più farli. E allora abbiamo rimesso insieme questi personaggi per ridare loro una possibilità, una seconda chance di raccontarsi, di dire... di ribadire il loro ruolo nella vita, no? Per la prima volta uno dei templi del diritto italiano, lo studio legale di Milano Bonelli Erede Pappalardo, ospita una mostra fotografica, Andrea Iemolo, I luoghi dell'arte. Alberto Saravalle al microfono di Adriana Fracchia. È la prima volta per noi ed effettivamente credo sia anche una delle prime volte in Italia. Siamo a Milano da tanti anni, ci riteniamo un'istituzione italiana e sicuramente un'istituzione milanese, e quindi crediamo che, come tutte le istituzioni, sia importante partecipare anche alla vita civile, partecipare anche alla vita culturale. E per il GR Spettacoli è tutto, da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.